Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Chi ama, chiama chi se. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami, che chi ami, chiami. Arriviamo, eh. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. E mi auguro che chiamerete l'800240024 per misurarvi con uno scioglilingua, una specie di riscaldamento per la puntata di oggi. Sopra la campa, pelle figlio di Apollo, 33 trentini, 800240024, chiamate, fate lavorare memoria e lingua, perché solo chi non si impapera può portare a casa un libro della preziosa e salutare libreria di Essere e Benessere. Dove sta il malato? Ecco là. Chi è lui? E che c'ha? Non lo so, non mi va a mangiare. È per questo che mi ha chiamato, signore, 15 chilometri per dirmi che il bimbo non mangia. Ma che dovevo fare? Eccolo il medico, che visita il nostro malatino. Tira fuori la lingua. Aspettate voi a tirare fuori la lingua, ma tenetevi pronti perché tra poco ci occuperemo della sua forma e del suo colore. Per adesso teniamola in stand-by, in posizione di riposo. Mi state seguendo? Benissimo, allora restate fermi se potete, ma l'importante è che teniate la lingua al suo posto. Perché questo muscoletto, a volte biforcuto, è responsabile di una serie di funzioni che hanno effetti a cascata sul nostro benessere generale. Qui in studio con me la dottoressa Veronica Bismarck, odontoiatra, esperta di rieducazione funzionale del cavo orale e della respirazione. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dimmi dove appoggi la lingua e ti dirò che... Se sei rilassato, se sei nella posizione giusta per la deglutizione, per chiudere bene i denti, se respiri bene e se parli bene. Allora, individuiamo il punto magico, il punto giusto, dove mettere la punta della nostra lingua, perché la lingua sta in punta. La lingua sta in punta. La lingua deve stare nel punto dove noi appoggiamo la lingua quando diciamo la lettera L. L. L. Dove ci sono queste rughettine un po' scabrose e si sente che non è perfettamente liscio, lì la lingua deve stare in posizione di riposo, cioè quando non parliamo, non stiamo facendo nulla. I denti leggermente staccati e la lingua leggermente appoggiata in questo punto. 800 24 00 24, la lingua in bocca, come si dice. Adesso che abbiamo individuato questo punto, proviamo a prendere consapevolezza della nostra lingua e apriamo una parola, una parentesi su questa parola, consapevolezza. La lingua noi la usiamo spesso a sproposito, no? Anche metaforicamente. Ecco, però è un muscolo che non governiamo. È vero? Sì, è un muscolo che non è soggetto a una grande consapevolezza, perché comunque è formato da 17 muscoli, di cui due soltanto sono proprio del corpo della lingua, gli altri si chiamano estrinseci perché sono fuori e la connettono a tutte le strutture che le sono vicine. Per cui è un muscolo che va allenato, anche lei, a dirle e dirle, va detto alla lingua dove stare quando dobbiamo parlare, e allora si parla di logopedia, ma dove stare anche quando non deve fare nulla. Oltretutto il punto della L, dove la lingua dovrebbe stare appoggiata, è un punto importantissimo anche dal punto di vista energetico. Perché? Perché è un punto di congiunzione di due meridiani, cosiddetti meridiani straordinari, secondo la medicina cinese, che si chiamano vasoconcezione e vasogovernatore, che si riuniscono proprio lì. E infatti in tante pratiche orientali di meditazione, piuttosto che di altre discipline, viene raccomandato di tenere la lingua in quella posizione mentre si medita, mentre si fa tai chi o altre cose. Quindi 800 24 00 24, pensate alla vostra lingua, prendetene consapevolezza, chiamatemi, provate a misurarvi con gli sciogli lingua, che sono una sorta di riscaldamento anche per la lingua. Ma adesso, per prendere consapevolezza della nostra lingua, per capire quanto e se riusciamo in qualche modo a governarla, proviamo con un secondo esercizio. Gli esercizi la dottoressa Bismara li ha preparati, li metteremo naturalmente sulla pagina di Essere Benessere. Sono degli esercizi che noi impareremo, che faremo ripetutamente quando ci piace nel corso della giornata, e poi una volta imparati, una volta metabolizzati, interiorizzati, un po' come, no, andare in macchina, faremo, sì, come suonare il pianoforte. Come suonare il pianoforte, ci verranno quasi in automatico. Dottoressa, noi siamo pronti, anzi soprattutto sono pronta anch'io, che oggi lei mi farà lavorare con... Allora, intanto sentite appunto dov'è il punto della L, quindi L, è lì, è il punto dove tenere la lingua. E poi potete solleticare queste rughe, le cosiddette rughe palatine, in senso trasverso e anteriore e posteriore, senza muovere il mento. Questo è importante perché uno dei muscoli che muove la lingua collega proprio la lingua al mento. E allora noi non vogliamo utilizzare questo muscolo, vogliamo rendere la lingua sempre più indipendente, cioè sempre più capace di fare quello che noi le diciamo. Quindi provate a fare questo gioco solleticando le rughettine senza muovere il mento. Può essere semplificato se uno si guarda allo specchio all'inizio. E sì. Se non potete, comunque cercate di capire se il mento si muove. Se segue oppure se sta fermo. E la lingua praticamente viene separato il gruppo muscolare della lingua e quindi si intensifica il suo lavoro. I vantaggi. Cerchiamo di far capire anche i vantaggi di una corretta posizione della lingua. Lei li ha anticipati in apertura e vediamo che ci aiuta a fare delle cose diverse tra loro, anche se tra loro collegate. Prima di tutto lei ha citato la respirazione, però ha parlato anche della parola. Quindi la corretta, come noi emettiamo i suoni, e anche la postura, perché tutto, noi ne abbiamo parlato tante volte anche con la dottoressa Bertelè, siamo certo. Assolutamente collegati. Assolutamente, siamo una catena muscolare molto grande, la lingua è uno dei capisaldi, è un capostipite, e qualcuno la chiama il bisonte della bocca, perché è veramente un muscolo molto forte che può influenzare tutte le strutture che la circondano, in senso positivo se viene posizionata nel modo corretto e in senso negativo se invece viene posizionata non solo durante la deglutizione ma anche proprio nella posizione di riposo in una postura che non è la sua. Quindi ovviamente ci sono delle problematiche intrinseche della lingua, se uno ha il frenulo corto, certo, allora fa più fatica senz'altro, ma anche qua ci sono esercizi prima di fare quella radicale frenulectomia, no? che è tagliare il frenulino, ma ci sono degli esercizi per allungarlo, per fare dello stretching. Proviamolo. Anche è quello di tirare la lingua fuori, forse sì. Il dottor Fussi ve ne ha parlato quando sì. È venuto lui. È proprio prendersi la lingua in mano e tirare. Ma un altro esercizio molto carino, un po' meno traumatico, è posizionare la lingua nel punto della L, aprire e chiudere la bocca e i denti senza staccare la lingua dal palato. Quindi allenarla a fare proprio... una specie di allungamento. Questo è molto importante per quelli che hanno difficoltà a deglutire correttamente. 800 24 00 24, allenate la vostra lingua, chiamateci e via con gli scioglilingua. Andiamo avanti con gli scioglilingua. Va bene, subito. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle il pollo. Tutti i pesci vennero a galla a mangiare la palla di pelle il pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 centini andarono a 30 tutte e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle il pollo. Tutti i pesci vennero a galla a mangiare la palla di pelle il pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 centini andarono a 30. Però per me questo qui è un fenomeno. Tocca a voi allora, forza con gli scioglilingua. 800 24 00 24, la lingua si scioglie, voi potete ricevere a casa un libro della preziosa e salutare libreria di Essere Benessere. 800 24 00 24, ma i vantaggi non finiscono qui, come ci spiegherà il professor Giuseppe Alfredo Iannocari, neuropsicologo e presidente di Assomensana, oltre che il nostro collaboratore al Daily Lab. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei, Nicoletta, alla sua illustre ospite e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Professore, che cosa succede quando noi pronunciamo uno scioglilingua? Beh, lo scioglilingua impegna prevalentemente l'area del cervello posizionata nel lobo frontale sinistro, all'altezza dell'orecchio sinistro per intenderci, che si chiama l'area di Broca, che è appunto quella deputata alla produzione del linguaggio. Gli scioglilingua aiutano diverse funzioni, è un compito abbastanza complesso, ad esempio aiuta ad aumentare la velocità della fluenza verbale, aiuta ad aumentare la capacità di concentrarsi sui contenuti verbali, migliora la pianificazione e la costruzione sintattica della frase e consente anche di focalizzare meglio l'attenzione su ciò che viene detto e quindi facilita il lavoro che deve fare la memoria verbale per conservare le informazioni che ascoltiamo, ad esempio durante la trasmissione essere benessere. Fantastico, questo ci voleva. Professore, e quindi misurarsi con scioglilingua o anche un po' anche con le filastrocche, immagino, può essere un buon allenamento per sviluppare e potenziare altre competenze. Lei infatti ha sottolineato che ci vuole attenzione, concentrazione e ritmo. Assolutamente, l'attenzione e la concentrazione e il ritmo, ad esempio per l'attenzione lo scioglilingua è particolarmente indicato per allenare le funzioni mentali di quelle persone che spesso sono distratte e dimenticano ad esempio oggetti in giro come le chiavi, gli occhiali eccetera o attività da svolgere. Aiuta anche la concentrazione, ad esempio aiuta nei compiti che devono essere fatti in modo efficiente senza che ci si faccia distrarre da altro. L'altra funzione che lei citava è il ritmo, infatti il ritmo beneficia delle filastrocche e degli scioglilingua. Il ritmo è una condizione che aiuta le nostre funzioni mentali a sincronizzarsi e a lavorare meglio, soprattutto quando dobbiamo svolgere compiti di movimento oppure compiti logico-matematici. Adesso le voglio far risentire, se Carmelo Lauricella ce la rimanda, gli scioglilingua letti dai nostri speaker. Possiamo? Che così il professor Iannoccari, o forse no. Adesso, sì, ce la facciamo? Vai! Non ce la facciamo. Devo farlo io? Allora no. Lo faccia lei, uno scioglilingua, vai! Ci provo, eh? Dai! Perché prima facevo gli esercizi detti dalla professoressa, quindi mi sono un po' allenato, eh? Allora, a che serve che la serva si conservi, la conserva se la serva, quando serve non si conservi di conserva? Bravo! professore, le faremo avere una copia, anzi sì? Mi sto allargando perché la dottoressa si allarghi. La dottoressa Bismara sì. Usa anche la voce e il canto per la riabilitazione, in mm-hmm. effetti canta e ha un libro che io mi sono letta in questo fine settimana, molto bello e che voglio consigliare ai miei ascoltatori, ne ho solo una copia, ma la dottoressa Bismara magari una volta me ne porta qualcuno, dove ci sono proprio tanti esercizi e c'è soprattutto l'idea che noi attraverso la voce sviluppiamo la muscolatura della nostra bocca, lingua compresa. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo una postura più naturale, più rispettosa del nostro equilibrio. Il libro si intitola Suoni dell'anima, l'essenza nascosta della voce, edizioni Minerva, ed è veramente un concentrato di consigli semplici, chiari, diretti, un libro che fa venire voglia di cantare. Sì. E di tenere la lingua a posto. Sì, di tenere la lingua a posto, perché comunque, come diceva il professore, la concentrazione, la focalizzazione è un modo, è importantissima per qualsiasi attività, e il canto consapevole, quindi utilizzando la lingua, il cavo orale, tutta la muscolatura fatto in un certo modo, aiuta a sviluppare comunque una consapevolezza anche di se stesso, perché la voce è l'espressione di noi stessi. Andiamo. Chi ama, chiama chi sei. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami. Che chi ami, chiami. Arriviamo, eh. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. Chi ama, chiama chi ama. Chiamami tu che chi ami, chiami. Chi amo, chiamerò se tu non chiami. Alessandra De Luca e Diego Baldoin, splendide voci di Radio 24 che si misurano con gli scioglilingua, e chiedo ai nostri ascoltatori di misurarsi, perché noi cerchiamo di capire, no, come siamo consapevoli della nostra lingua. Il professor Iannoccari ci ha spiegato che a guadagnarci sono anche altre competenze. 800 24 00 24 se volete, come il professor Iannoccari, misurarvi. Grazie professore. Grazie a lei, buon ascolto, buongiorno. Arrivederci. Stefano, buongiorno, da Padova. Stefano? Sì. Sì, io intervengo nel senso di dire che io ho il problema di parlare più di una lingua, per cui mi devo un po' aggiustare la lingua a seconda della lingua. Sì, quante però lingue parla Stefano? Soggettivamente che il miglior modo di avere una lingua buona è quello di avere un corretto rapporto di bacio con una persona che si ama, il bacio cosiddetto French kiss. Il bacio alla francese, Ale, fantastico. Bravo, è vero. Assolutamente, il bacio poi è una scusate, ma è una pratica che la lingua fa benissimo. E quindi, certo. Bene, e rinforza anche, perché certo. È una sorta di anche vaccinazione, sì, vero? Sì, sì, ma poi è veramente, poi se non lo facciamo noi italiani, c'è uno scambio alchemico ormonale, cioè attiva una serie di meccanismi endocrini che non fanno bene soltanto alla lingua, fanno ecco, bene a tutto. Fanno bene a tutte, quindi sì, perché queste... non si poteva dire, ma visto che mi offrono no ma assoluta, guardi, qua si può dire benissimo. Noi diciamo tutto quello che ci fa stare bene. Comunque a parte, passa attraverso essere a parte il bacio alla francese, esistono anche degli esercizi proprio per sviluppare le labbra che sono che bacio sorriso, io lo chiamo, perché si usano in quei bambini che respirano con la bocca invece che col naso e che quindi hanno le labbra cosiddette beanti, cioè che restano aperte quando chiudono i denti e quindi sono un po' ipotoniche. Sì. Per sviluppare la tonicità si usa l'esercizio bacio, quindi posizionare le labbra come un bacio e subito dopo sorriso, esatto. E quindi e questo fa bene alle labbra, fa bene anche alle rughe di chi chiude bene la bocca. E si rimpolpano anche un po' le labbra. E si rimpolpano anche un po' le labbra. E si diventa degli ottimi baciatori. Quindi il bacio, chissà alla francese o no, va sempre bene. Chissà se Antonella bacia. Antonella, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, bellissima. Grazie, Antonella. Sì. Io ci avrei un soglilingua. Dai! In dialetto veneto, perché sono veneto. Eh sì, no? Arriva da Verona, certo, noi siamo pronti. Poi faccio la traduzione. Sì. Tiche te tacchi tacchi, tacche mi tacchi a me, mi che te tacchi i tacchi a ti, tacche ti li ti tacchi, tiche te tacchi tacchi. Le traduco? Sì, Antonella. Tu che? Tu che attacchi i tacchi, attacca i tacchi a me, io attacco i tacchi a te. Attaccateli dai tacchi, tu che tacchi tacchi. Brava Antonella, che ha rotto il ghiaccio. 800 24 00 24, ad Antonella il quaderno di esercizi per vedere la Via en Rose. Sono dei quadernetti molto carini, divertenti e utili di Vallardi Editore, e lo faremo ricevere a casa ad Antonella direttamente dalla libreria di Essere Benessere. Grazie Antonella. Bianco è bello, ma adesso il sorriso si vuole più bianco che più bianco non si può. Ne parliamo oggi insieme al dottor Antonio Busato, che è odontoiatra a Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno. Dottore, che cosa possiamo fare per, iniziamo a gradi, mantenere il nostro smalto di un colore gradevole, bianco? Beh, allora, dunque, tenendo conto del fatto che con l'invecchiamento è normale che i denti subiscano qualche piccola alterazione cromatica, possiamo cercare di evitare dei danni maggiori evitando le sostanze che pigmentando lo smalto tendono quindi a produrre delle colorazioni sgradevoli, quindi il tè, il caffè in eccesso, il fumo, le sostanze molto colorate in genere. Sì, ma se io prendo il caffè, prendo il tè, perché non possiamo toglierci tutto, certo. L'idea qual è? Bevo, sciacquo la bocca, bevo, spazzolo, oppure cosa devo fare? Beh, idealmente bevo, mi sciacquo la bocca o se possibile mi spazzolo. Il problema, come sempre, sono le quantità. Cioè, 3 caffè al giorno, 4 caffè al giorno non rappresentano sicuramente un problema. L'uso smodato di queste bevande, sia per il tè che per il caffè che per il tabacco o quant'altro, comporta dei problemi che sono legati alle quantità. Perché lo smalto, dottoressa Bismara, è poroso. Certo, lo smalto subisce anche lui le aggressioni, non soltanto dei coloranti, ma anche degli agenti chimici, anche delle sostanze acide, infatti anche sostanze come quelle contenute nelle bevande colorate, no? Non si può, però, insomma, le bevande gasate, diciamo, certo, colorate, ecco, quelle macchiano. Anche macchiano, certo. Questi sono gli alimenti e le abitudini solitudine che bisogna anche evitare, dottor Busato, dopo che abbiamo fatto un trattamento di sbiancamento a casa o dal dentista, perché certo, ci sono persone che vanno a farsi sbiancare i denti, poi scendono, si fumano la sigaretta, bevono magari il caffè, ecco lì, e un po' buttare i soldi dalla finestra, o sì, sbaglio? A maggior ragione, anche perché esiste una finestra temporale pur breve durante la quale queste sostanze sono in grado di produrre dei danni maggiori di quelli abituali, nel senso che le sostanze sbiancanti che agiscono a vario livello ottengono un eccellente risultato durante il trattamento. È chiaro che se nella fase immediatamente successiva vengono applicate delle sostanze colorate, queste hanno la possibilità di penetrare in maniera più consistente nello smalto e quindi di produrre dei danni maggiori. Ci sono tanti rimedi che vengono suggeriti per tenere i denti bianchi o per sbiancarli, soprattutto per le persone che non vogliono magari fare lo sbiancamento dal dentista o utilizzare prodotti. Va molto, almeno al 349-238-6666, il bicarbonato. Dottor Busato. Allora, il bicarbonato è una sostanza abrasiva, quindi non è una sostanza sbiancante, è in grado di rimuovere le macchie di superficie, sì, e se usato in maniera sconsiderata provoca dei danni gravi, importanti allo smalto. Quindi i messaggi che sono arrivati al 349-238-6666, uso il bicarbonato e mi trovo benissimo, non va bene. No, assolutamente, anche perché le sostanze sbiancanti che vengono utilizzate professionalmente agiscono con un meccanismo differente, che sì, non è di tipo abrasivo, mentre il bicarbonato produce questo genere di effetti. Se usato in maniera importante, insomma significativa, provoca un'abrasione dello smalto che dà l'illusione attraverso l'opacizzazione di una maggior bianchezza, ma non è così in realtà. Dottore, per lo sbiancamento si sbiancano i denti sani, ecco, cioè quando ci guardiamo allo specchio e troviamo di avere una bocca non più fresca, perché magari lo smalto, proprio come ci ha spiegato il dottor Busato, ma lo sappiamo bene anche noi, un po' con la nostra pelle si risente un po' il passare degli anni, non pensiamo che con uno sbiancamento tutto ritorni a posto. Anzi, lo sbiancamento va fatto su un tessuto, un dente assolutamente, certo, sano, dottore. Certo, prima le terapie delle patologie più frequenti, gengivite, la carie, la malattia orodontale, e poi successivamente è possibile fare delle terapie estetiche di grande valore, come per esempio il bleaching o sbiancamento dentale. Che si tratta infatti di una tecnica molto semplice, una tecnica è una specie di portateco, no? Questa tecnica che lei mi suggerisce. Sì, sono delle tecniche estremamente sicure, ci sono centinaia di studi che dimostrano che i danni allo smalto sono inesistenti, e si basano sull'uso di sostanze sbiancanti iperossidi, sì, che liberano dell'ossigeno attivo, iperattivo, che entra nello smalto e modifica la forma, sì, delle molecole che sono responsabili delle discolorazioni dello smalto, rendendole incolori. Il risultato è veramente importante e soprattutto può essere mantenuto per lunghissimo tempo con delle piccole terapie di rientro. Quindi grazie dottor Busato. Prego. Buon sorriso anche a lei. Un bacio, vero? Un bacio. Un bacio e un sorriso, un sorriso al dottor Busato. Grazie. Ma perché noi alleniamo la bocca. Assolutamente, ma grazie, se lo merita. Se lo merita anche lui. Domenico, buongiorno da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda per quanto riguarda la posizione della lingua. Sì. Ho una bambina di 9 anni che praticamente tiene la lingua in basso, posizionata in basso anche a riposo. E questo dà problemi anche ha generato dei problemi di malocclusione, perché tende a portare avanti la mandibola. Certo. Esatto. Volevo sapere quali esercizi si potevano fare per ovviare o limitare questo problema. Allora, intanto bisogna, buongiorno, bisogna buongiorno, capire come mai tiene la lingua in basso, perché se c'è un frenulo corto, allora, molto corto, allora è indicata la frenulectomia. Per capire se una persona ha il frenulo molto corto, un esercizio abbastanza semplice è fare il cavallo, cioè verificare se uno riesce a fare questo rumore, allora significa che il frenulo è abbastanza lungo, e poi guardare la lingua della bimba, cioè se la lingua della bambina quando sporge ha una forma a cuore, cioè significa che il frenulo tira e che la punta non è più a punta, ma fa proprio una forma a cuoricino. Sì. Allora quello significa che la lingua è troppo corta per poterle chiedere anche un esercizio di stretching. Altrimenti, oppure ecco, la posizione bassa può essere anche causata da un'abitudine viziata. Se l'allattamento è completamente artificiale, la bambina non si abitua, il bambino non si abitua a deglutire correttamente e a tenere la lingua quindi posizionata in alto, perché l'allattamento al capezzolo è più faticoso e ha bisogno di una maggiore richiesta di forza da parte della lingua, quindi la lingua si abitua ad essere tonica. Invece l'allattamento artificiale è passivo e quindi il bambino tende, lascia la lingua sviluppare bassa. Esatto. Ricordiamo, dottoressa Vismara, che la lingua cambia anche la posizione dei denti. Assolutamente. Adesso li abbiamo sbiancati, ma i denti cambiano proprio con il tempo. Non solo lo smalto può ingiallirsi, ci possiamo trovare una bocca differente. Prima di lamentarci, perché noi parleremo anche di afte, capita, no? Ad alcuni capita molto spesso di confrontarsi con queste piccole lesioni, ulcere, dolorose, ulcere, spesso quando siamo sotto pressione, ma io voglio ancora occuparmi della posizione della lingua. Abbiamo detto il bacio alla francese è utile, ma ci sono degli esercizi di riabilitazione importanti che possono essere fatti dai bambini e possiamo farli anche noi che siamo adulti. Dottoressa. Sì, per rispondere all'ascoltatore di prima, gli esercizi che può proporre alla sua bambina sono: uno, quello che abbiamo detto prima, cioè di tenere la lingua sulle rughe, aprire e chiudere la bocca, lasciando la lingua, la punta della lingua a contatto con le rughe palatine, quindi facendo una sorta di stretching. E l'altro può essere quello di posizionare sulla punta della lingua della sua bambina, di solito si usa un elastichino ortodontico ma va benissimo un chicchino di riso, e farglielo tenere spinto sul palato in modo che lei si abitui a percepire questo corpo, piccolo corpo estraneo, e quindi a dire alla sua lingua tutte le volte che deglutisce: vai lì, vai lì. Intanto gli insegna un po' la strada dell'orto, perché poi la lingua va da sola. Esatto. Abbiamo Marisa e Carlo e Barbara. Marisa, buongiorno. Marisa? Buongiorno. Buongiorno Marisa, eccoci. Allora, corso di lingua. Corso di lingua, con uno scioglilingua. Va bene, quello di Apollo oppure quello della domestica? Marisa, scelga lei. L'importante è che non si impaperi. Va bene. Vada. D'accordo. A pelle figlio d'Apollo fece una para di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la para di pelle d'Apollo fatta da pelle figlio d'Apollo. Brava, brava, la lingua di Marisa. La lingua a posto, assolutamente. Perfetto. Anche a Marisa un quaderno di esercizi per coltivare la gioia nella vita quotidiana, Vallardi Editore. Grazie Marisa. Grazie Nicoletta. Grazie buongiorno. A lei, buona giornata. Carlo, buongiorno da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo anche io sciogli lingua. Dai, sciogliamo la lingua. Ma ha fatto gli esercizi, Carlo? Le ricordi? Io li faccio sempre, ne so anche tanti, ne so anche uno in napoletano se vuole. Bravo. È corto, ma bellissimo. Dai, allora andiamo napoletano. A cuoppo cupo, poco pepe cape, poco pepe cape, a cuoppo cupo. Adesso voglio la traduzione. Allora, il cuoppo sarebbe il cartoccino quando va in giro nel cibo di strada, che piace tanto anche al nostro Paolini, dove mette le patatine piuttosto che magari il peromus. Sai cos'è il peromus? Sono i nervetti. Sì, la dottoressa allora, lo sa. Il cupo vuol dire stretto, quindi se è stretto ci si entra poco pepe, no? Quindi Carlo da Bergamo si è misurato con uno scioglilingua napoletano e a lui regaliamo Le emozioni della mente, biologia del cervello emotivo del professor Perna dalla libreria di Essere Benessere. Grazie Carlo. Buongiorno a Barbara dalla provincia di Macerata. Eccoci. Sono Marche. Dalla provincia? Di Macerata. Sì, grazie. Allora, Barbara. Comincio? Dai. Avevo una graticola da sgraticolaticare e la portai al signor sgraticolaticatore di graticole, ma il signor sgraticolaticatore di graticole non c'era, per cui me la sgraticolaticai da sola e me la sgraticolaticai meglio del signor sgraticolaticatore di graticole. Brava, ecco Barbara, nello scioglilingua, e la dottoressa Vismara l'ha sottolineato, perché vi abbiamo fatto giocare con gli scioglilingua, il professor Iannocari ci ha raccontato il cervello, attenzione, concentrazione, ritmo, ma anche per capire se la nostra respirazione era corretta. Esatto. E la lingua come sempre ci mette lo zampino, dottoressa Vismara. Assolutamente. Intanto anche a Barbara possiamo far avere suoni dell'anima, l'essenza nascosta della voce, perché il suo è stato proprio uno scioglilingua molto musicale. Sì. La respirazione era corretta. Sì, perché comunque esiste una correlazione tra la parte posteriore della lingua, il retrofaringe, i muscoli del collo, il diaframma, siamo sempre collegati. Pensate che quando una persona respira male, quindi magari respira con la bocca, il naso chiuso, e addirittura quei bambini che presentano le adenoidi o le tonsille molto ingrossate, la lingua non trova il posto corretto nella parte posteriore e viene in avanti, quindi una lingua che non sa dove mettersi può anche essere perché non ha il posto dietro, quindi è molto importante la respirazione corretta proprio per dare spazio alla lingua di fare il suo dovere, cioè tutte le volte che deglutisce, una volta ogni 2 minuti circa durante la notte e ogni minuto durante il giorno, lei espande in senso trasversale il palato. Questo il palato bisonte, duro. Abbiamo un bisonte dentro di noi, governiamolo. Usiamolo correttamente. Dottoressa Vismara, afte passano da sole, sembra non ci sia nessun trattamento per calmare il dolore, che cosa si può fare? Allora, ci sono dei rimedi naturali. Sì. Io non sono tanto favorevole a cortisone. Questi rimedi che contengono cortisone, perché comunque sopprimono, piuttosto una banale anestetico, pomatine che contengono la lidocaina. E controllare che la lesione scompaia dopo quanti giorni. Oppure con l'aloe, ci sono rimedi a base di aloe molto che buoni. Che sono molto efficaci. Sì, molto efficaci. Attenzione però, quando le afte sono numerose e si ripresentano con una certa frequenza, possono essere indicative di che cosa? Ce lo facciamo spiegare in pochi secondi dal professor Gasbarrini, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Ordinario di gastroenterologia all'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professore, non tutto il male viene per nuocere, a volte proprio le afte, più afte possono essere indicative di una malattia che spesso non viene diagnosticata, perché si manifesta anche con forme un po' strane. Quale? Beh, sono due le malattie gastroenterologiche che possono esprimersi con afte. Una è la malattia celiaca e l'altra è il morbo di Crohn. Le afte di fondo compaiono anche all'interno dell'apparato digerente. Nella malattia celiaca le stesse tipo di piccole sono sul duodeno o in vari tratti dell'intestino. La bocca, sapete che fa parte dell'apparato digerente, il primo segmento, e a volte afte recidivanti ripetute sono una spia di malattia celiaca. Quindi professore, nel caso noi dobbiamo non sottovalutare il problema, se si ripresentano con una certa frequenza e sono molto ravvicinate, sono più... Ecco, il sospetto, questo non vuol dire l'autodiagnosi, assolutamente, ma parlatene con il vostro medico curante. Sia medico di medicina generale che gastroenterologo, ricordate sempre che la celiachia si diagnostica con esami del sangue, con un prelievo banale che si fa in ogni laboratorio, e non è una malattia rara. In Italia una persona su 90 ha questa malattia, che spesso si manifesta con sintomi non gastroenterologici come le afte della bocca. Professore, grazie, buona giornata, ci sentiamo presto. Arrivederla. Grazie. Dottoressa Vismara, io la ringrazio per essere grazie stata con noi. Grazie a voi, grazie a lei. Abbiamo fatto un po' di esercizi con la lingua, ci ha promosso anche il bacio alla francese, quindi baciatevi, sorridete e seguite gli esercizi che mettiamo sulla pagina di Essere Benessere, suggeriti dalla dottoressa Vismara. Grazie. Grazie a voi. A presto. A presto. E noi invece ci sentiamo domani.